Pulcinella e Colombina, stanchi di essere appesi per la testa a un filo, decidono di abbandonare il gran teatro di marionette, diretto da Fernando Malvasia. Fuggiti dal paese di Te lo domando, le tre marionette vanno incontro alla vita, senza fili, si intende. Radio Città Fujiko presenta Marionette in libertà. Massimo Vitali legge Gianni Rodari. Capitolo secondo. In assenza del padrone si prepara l'evasione. Dopo la recita, il sor Malvasia metteva a letto la compagnia, contando con cura le attrici, gli attori, i trovarobe e i suggeritori. 1, 2, 3, 6, 9, 4, 9, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 25. Ma conta e riconta e torna a contare, mai che il conto volesse tornare. Guarda, guarda, caso strano, ho un arlecchino per ogni mano. Colombina ha una sorella, la regina una gemella. Due diavoli, brutta coppia, qui mi sa che il personale mi si raddoppia. Ma io che son furbo, cosa farò? A doppio filo li legherò. Finita la conta, il nostro aritmetico sentiva in gola un brutto solletico. E per curarsi la tonsillite correva a bere sciroppo di vite, non senza chiudere a doppia mandata la porta d'uscita e quella d'entrata. Ma una sera, per distrazione, si scorda di chiudere il portone. Sbircia fuori Pulcinella e in cima al viale vede una stella. Io ti conosco, cara stellina. Ti ho vista una volta a Mergellina. È proprio la stessa? Ne sono sicuro. Se volete, ve lo giuro. A me pare, disse Arlecchino, precisa una stella che vide a Torino. Ma Colombina rise. Per una ce n'è un milione sulla laguna. La stella brillando pareva dire: bella è la notte, perché non uscire? Sul tavolino cade il mio raggio. Che ci vedete? Guardate, coraggio. Sul tavolo videro le marionette un bel paio di forbicette che il raggio sceso dal firmamento faceva brillare come l'argento. Pulcinella la mano allungò, ma il tavolo stava lontano un bel po'. La regina, se ci provava, a toccarle ci arrivava, ma lei di provare non se la sente, anzi diceva: impertinente, sarò decaduta, non lo nego, ma faccio la sarta forse? Dai, vi prego. Madama regina, lei si scorda che per scappare si taglia la corda. E lei testarda: no, non lavoro, è una questione di decoro. Giusto in quella, per fortuna, usciva un topo a scaldarsi alla luna. Pulcinella, sempre astuto, gli rivolge un bel saluto. E hai già pranzato, egregio compare? No, disse il topo. C'è qualcosa da rosicchiare? Qua c'è dello spago, se lo gradisce. Oh, il calcio è meglio, si capisce. Ma quando il meglio non si trova... Guardi però che è corda nuova. Insomma, per farla breve, il topo in fretta rosicchia il filo alla marionetta. E Pulcinella, balzando al suolo, lo ringraziava. «Bravo, bravo figliuolo!» Tagliò poi subito la cordicella di Colombina, la sua bella. Mentre l'ingordo Topolino liberava anche Arlecchino, borbottando a bocca piena. «Meglio una corda che una catena!» Al diavolo, per errore, morde la coda il roditore. Poi, sentendo odor di gatto, fuggì per non essere colto sul fatto. Miau miau! Ma non è che il gatto sta arrivando. Ragazzi, è niente meno che il Sor Fernando!